Buonasera a tutti da Pino Fasciano e l'ora del wrestling. Nuova intervista, nuovo personaggio, nuovo lottatore, nuova top star. Un grandissimo talento, un talento di cui sentirete molto parlare. Un talento dell'FCW. E poi, non vorrei mai, poi dovrò passare per le forche caudine di Giacomo Giglio, di Mickey Hunter e Alex Creamy. Ma non voglio essere io a presentarlo, è lo stesso ospite che si presenterà. Prego. Zah! Buonasera a tutti, Wing Snake è qui con voi. Zah! Ringrazio Sono Wingsnake, prontissimo. anche io, ringrazio Wingsnake di aver accettato il mio invito e ringrazio doppiamente Wingsnake per la sua gentilezza e professionalità. Da parte mia è vero che ci ho messo un po' troppo tempo ad invitarlo, però da parte sua gli devo lanciare una piccola stilettata, il fatto che usa pochi social. Mi dispiace, te la dovevo lanciare la stilettata. Wing Snake, ragazzi, non ha bisogno dei social. Wing Snake ha bisogno solo di un po' di sa, di un po' di sano, di un po' di fantastica personalità. Non c'è bisogno dei social. Venite a vedermi proprio dal vivo, cazzo. Scusate la parolaccia. Venite a vedere dal vivo Wing Snake e riuscirete a capire che tipo di carisma Wing Snake vi può offrire. Grazie, Wingsnake. Veloce, veloce. Allora, questa intervista sarà disponibile in forma integrale, senza censure, solo qui su Odyssey, la piattaforma streaming blockchain Odyssey. Poi la potete recuperare in forma tagliata in audio su dandyradio.net e su Radio Wi-Fi Official. It. Mi chiederete perché? Per un semplice motivo, perché in video vi ascoltate e potete avere il privilegio di ascoltare un'ora e passa di Wig Snake, e vi posso assicurare, parola di Pino Fasciano, vi divertirete, mentre in forma audio vi dovete sorbire la parte ovviamente tagliata. Mi dispiace. Comunque andiamo avanti e non perdiamo tempo con Wingsnake. Allora, chi è Wingsnake dietro la maschera? Wing Snake dietro la maschera è un ragazzo che comunque sta lavorando, ha studiato e ha lavorato nel settore dell'audiovisivo, più che altro montaggio video. Infatti ammetto qualche video dell'FCW su YouTube, ci ho lavorato anche io, però ho fatto anche lavori occasionali, lavori manuali, comunque sono un po' tutto a fare, se si può dire. Devi essere orgoglioso. Questa Grazie, è una cioè mia faccio del mio ovvia meglio comunque. è una mia opinione personale, questo da persona a persona, che non c'entra niente con l'intervista, ovviamente. Torniamo a noi. Da dove nasce questo nome così visivo e inquietante? Allora, è una storia che va indietro di un po' di anni. Wing Snake, appena 18enne, aveva deciso di farsi un tatuaggio. Il famoso tatuaggio è, vediamo se riesco a farlo vedere, è questo. Un serpente alato. Quindi quando ho iniziato questo percorso nel wrestling e dovevo decidere un po' il personaggio, ho detto, abbiamo fatto questo tatuaggio, trasformiamolo in un personaggio, facciamo Winged Snake. Quindi diciamo che ho preso una parte di me di un po' di anni fa e l'ho trasformata in un personaggio. Almeno questo tatuaggio ha un significato in più e non è solo un decorativo, dai. Guarda, voglio fare un collegamento cinematografico, per curiosità, se anche spezzone, tanto si trova, di recuperarti, perché mi hai dato in un certo senso, mi hai dato l'assist per il collegamento cinematografico. un vecchissimo, stiamo a livello di, non mi ricordo, 75 anni, 1975-1979, comunque un vecchissimo film horror che si chiama proprio Il Serpente Alato, che per chi è Ah, un non lo cultore conosco. dell'horror ovviamente lo conosce e se lo ricorda. Ovviamente a chi non piace l'horror e chi comunque non piace, perché non è comunque un film, come si dice, mitologico, ovviamente non gli importa. O se gli dico serpente, pensa al massimo a Il Serpente all'Arcobaleno, che è un film dell'ex regista di Nightmare, Wes Craven, per dire, a proposito di serpente all'interno di un film. Poi un altro che in questo momento mi sfugge, non mi ricordo se era nella Tana del Serpente, vabbè, poi mi verrà in mente, ma tanto sono collegamenti cinematografici che lasciano il tempo che trovano. Però ti consiglio di recuperare, si chiama proprio Il Serpente Alato, Guarda, con ci darò un occhio giusto per il contesto, comunque. e finisco il collegamento e poi basta. Se hai mai seguito quella serie televisiva crime poliziesca Law and Order, però l'originale, comunque praticamente era interpretato da uno dei protagonisti, ma stiamo parlando dell'originale, che poi dopo è diventato Special Victim Unit, poi è diventato un franchise, però proprio l'originale di Law and Order, comunque in questo film Il Serpente Alato è interpretato da uno dei protagonisti di Law and Order, Michael Moriarty. Questo per farti capire la mia cultura cinematografica e televisiva, approfittando del tuo Complimenti, tatuaggio. eh. Del tuo No, tatuaggio. comunque non lo conoscevo. Law & Order, diciamo, più che altro ho visto qualche L'originale. episodio sporadicamente, comunque dopo che è diventato Special Victims Unit. Quello è impossibile che non lo conosci, perché meno Nel male, replica senso, a allora, lo conosco, nel senso, devo essere onesto, non sono tipo da serie TV, preferisco di gran lunga i film, quindi serie TV poco, veramente poco in vita mia ne ho viste. andiamo avanti. Comunque, se puoi recuperare Il Serpente Alato, come si dice, male non ti fa. Certo. Specialmente il sabato notte o il venerdì notte. Non ci sta nessuno. No, no, ma è un horror, ovviamente, perché è proprio un serpente che arriva dall'alto. Comunque, andiamo avanti con l'intervista. Allora, ti stavo dicendo che. Vabbè, te la faccio ripetere perché non ho capito bene la risposta, colpa mia, però mi sembra che te l'avevo fatta e non avevi risposto. Però nel caso la ripeti, non fa niente. Da dove nasce questo nome così visivo e inquietante? Non l'ho capita bene, fai conto che me la devi ripetere perché non l'ho capito bene. No, ok. Semplicemente è perché ho fatto questo tatuaggio qua che è un serpente alato appena ho compiuto 18 anni e ho deciso di trasformare sta cosa in un personaggio, diciamo, da portare sul ring. Semplicemente. Ti ringrazio per aver ripetuto, è più dal punto di vista dell'audio, sai, quando poi va a finire nell'audio, capace che per colpa mia si è capito e non si è capito. Grazie per aver ripetuto. Andiamo avanti. Che significato ha per te la maschera o la tua maschera, se preferisci, nel 2025? Allora, la maschera in generale è un modo che io trovo molto bello, diciamo, per identificarsi nel pro wrestling, per creare dei personaggi o comunque, cioè, un modo di esprimersi praticamente, soprattutto nel wrestling messicano, è quasi un pezzo di cultura. Ovviamente qua in Italia e in altri paesi non è a quel livello, però diciamo è comunque nella cultura del pro wrestling, una delle, diciamo, immagini, nel senso, la maschera è uno di quei concetti proprio marcati dentro a questo mondo. E diciamo che ho voluto metterci, fare anche io, cioè volevo anche io dare, diciamo, usare questo simbolo. Ti ispiri a qualche figura mitologica o reale, ovviamente per la tua maschera, ovviamente, anzi, maschera e personaggio. Onestamente, no. Le mie ispirazioni per il maschere personaggio vengono comunque da wrestler giapponesi, diciamo poco conosciuti, un po' di nicchia, più che altro, però la mia, mio personaggio, la mia maschera non hanno, diciamo, origini dalla mitologia. Ma domanda che mi è venuta in mente, ma come ti posso dire? All'inizio, quando poi hai creato, comunque hai voluto utilizzare la maschera, hai pensato o non l'hai proprio messo in considerazione? Ti faccio un esempio stupido. Volevi realizzare una maschera messicana, è lecito, è legittimo pensare alla maschera messicana, però poi ovviamente, è una questione ovviamente, diciamocelo pure senza fare giri di parole, di opportunità o anche per una tua convinzione, è meglio di no. Ci hai mai pensato? Onestamente no, non ci ho mai pensato, devo essere onesto. Semplicemente ho preso ispirazione, diciamo, da questi personaggi del wrestling giapponese per creare, diciamo, l'attire, il personaggio. Quindi non ho pensato a quello, più che altro ho voluto emulare, non so se il termine è più adatto, diciamo, ispirarmi proprio a queste figure. Ok, andiamo avanti. Ti ringrazio per aver risposto. Aspetta che recupero un momento perché stavo per. No, vabbè, ecco, trovata. Che cosa vuoi trasmettere con il tuo personaggio? Allora, Wing Snake come personaggio, il mio obiettivo almeno è quello di dare spettacolo, far divertire, cioè proprio comunque è un modo di sfruttare le mie attuali abilità nel. Senti? Senti? Pronto? Ti sento? Mi si è surriscaldato il cellulare e mi ha chiuso tutte le applicazioni. Chiedo scusa. Che Va figura. bene, Adesso dovrò. guarda, adesso sto letteralmente appoggiando il telefono a una bottiglia d'acqua gelata per evitare che ricapiti. Speriamo. Vabbè, ti do un suggerimento, tanto devo tagliare tutta parte, quindi comunque dopo devo mettere comunque dopo al lavoro, ti do un suggerimento. Allora, io ce l'ho, però lo utilizzo poco. Compra direttamente il ventilatore che si mette, per esempio, come Sì, si chiama? sì. Praticamente il ventilatore che si mette dietro al telefono, che con queste temperature è terribile. Dovrei farlo pure io, per carità. Sempre qui, no, ce l'ho però non lo metto, è ad artiglio praticamente, è la Ok, ventola no, capito, sì, capito. alle spalle del telefono, si mette dietro ad artiglio Sì. e gira tutta la ventola. No, no, ce l'ho sempre qui. Vabbè. Eccomi. Allora, dove eravamo? Dove eravamo? Dov'è che eravamo rimasti? Tanto ormai devo tagliare, quindi comunque, capito? Allora, cosa vuoi trasmettere con il tuo personaggio? Allora, il mio personaggio comunque è nato perché volevo comunque far divertire le persone, volevo intrattenere sfruttando più che posso le mie attuali abilità sul ring. Quindi diciamo il personaggio che ho è diciamo la via di mezzo tra quello che so fare sul ring e quello che so dare anche come doti diciamo attoriali, nel senso non è correttissimo però comunque sono un bravo interpretatore, diciamo, comunque ho fatto corsi di teatro e so come interpretare un personaggio. E poi inoltre volevo portare, diciamo, sul ring degli elementi, come ho menzionato prima, mi ispiro ad alcuni wrestler giapponesi di nicchia, voglio portare sul ring italiano anche questi piccoli elementi presi da realtà piccoline del wrestling giapponese a cui mi sono appassionato ed è un modo, diciamo, per non solo per portarle su ring, ma anche per portare rispetto, menzionarle, diciamo, comunque è un modo mio di essere fan, per così dire, di queste realtà. Andiamo avanti. Allora, come sei entrato nel mondo dell'FCW? Allora, diciamo che quando ho voluto iniziare a fare il wrestler, semplicemente ho fatto un po' di ricerca su quali realtà a Milano, dove potevo allenarmi, quali sono le realtà che c'erano, la storia e tutto, e vedendo un attimo anche la comodità per arrivare, diciamo, per arrivare alla palestra per allenarmi. Comunque anche un po' per ricerca che ho fatto, per l'interesse che ho iniziato a nutrire, ho contattato telefonicamente Giacomo Giglio e da lì è iniziata un po' questa storia, ho iniziato ad allenarmi e adesso Wing Snake è una figura, diciamo, costante, sempre quasi sempre presente negli show FCW. Andiamo avanti. Ricordi il giorno del tuo debutto? Sì, me lo ricordo, è come se me lo ricordo. Devo essere onesto, ero abbastanza nervoso, non tanto perché era il mio primo match, ma perché, ovviamente, essendo nuovo e tutto, il mio primo match è stato contro il Marchese e io mi ero fatto in testa questa immagine del Marchese come il super veterano che tratta i giovani come se fossero gli ultimi arrivati, proprio che li schifa, che. poi mi ha, cioè, ci è voluto niente per capire che questa mia concezione era totalmente errata, però diciamo che mi ricordo bene che il primo giorno, il giorno del mio primo match, avevo questa leggera paura. Andiamo avanti. Allora, yes. quali sono state le tue, cioè, come, aspetta, te la rifaccio meglio. Quali sono state le tue difficoltà da lottatore mascherato ad entrare nel mondo del wrestling italiano, ovviamente? Allora, questa è una bella domanda. Diciamo che prima di tutto è una cosa che mi hanno detto anche gli altri ragazzi dell'SCW. Ho comunque una discreta espressività facciale e mettendo una maschera, diciamo, avrei coperto questa cosa almeno in parte. Quindi diciamo che una delle difficoltà di essere un lottatore mascherato è essere espressivo, proprio perché stai coprendo 80% del tuo muso, quindi non è facile. E poi un'altra problematica, diciamo che non è proprio una cosa del wrestling italiano, è proprio una problematica mia personale, la voglio mettere. Sono miope tecnicamente, quindi letteralmente faccio fatica a vedere 2 metri davanti a me senza occhiali. Nonostante questo, comunque, sono riuscito a cavarmela nei match, però per farvi capire, questo è Winged Snake con gli occhiali e non è il massimo, ovviamente, meglio senza. Ok. Voglio fare a cambio, io sono astigmatico da un occhio. Quindi sì, ah, quindi pare che no, vabbè, diciamo ognuno ha le sue. giusto, andiamo avanti. Scusami, ti sei mai sentito in condizioni, specialmente all'inizio, quando hai iniziato ad allenarti e poi a lottare, ti sei mai sentito in condizione di dire oggi mollo tutto, non ce la faccio più, non fa per me? Assolutamente no, sono solo all'inizio, fidatevi, Winged Snake ha ancora tanto da offrire. Domanda aggiuntiva che mi è venuta in mente adesso. Ovviamente lo faccio quasi sempre a tutti i lottatori dell'FCW, perché è una domanda che mi diverte, che mi fa scompisciare dalle risate. Com'è Giacomo Giglio come allenatore? Giacomo Giglio come allenatore, diciamo che è un grande. Giacomo Giglio come allenatore mi ha permesso di crescere, mi ha permesso di comunque fare match con cosa, 4 mesi di allenamento. Non, diciamo che non è che tutti ti lasciano fare un match con così poca esperienza. Vuol dire che comunque è uno che mi ha dato tanta fiducia e per questo lo apprezzo molto. Onestamente è difficile per me trovare punti negativi su di lui, se non che è leggermente ossessionato con Hogan, però ognuno ha le sue. Hai capito il senso? Perché dico così? Perché ogni volta che faccio la domanda, prettamente ovviamente all'ottodio dell'FCW, tutti quanti a dirmi Giacomo Giglio è un grandissimo allenatore. Ho detto tutto. Ma io Ok. voglio fare lo stesso, perché? Perché mi piace sentirlo dire, perché Giacomo Giglio merita il massimo rispetto, e specialmente come allenatore è tra i migliori in Italia, e certamente non ti butta sul ring se non è sicuro al mille per mille che puoi dare qualche cosa, e anche la tua sicurezza, che non ti butta sul ring se rischi qualche cosa. Concordo pienamente. Andiamo avanti. Allora, ecco, c'è qualcuno che ha creduto in te sin dall'inizio? E perché? Onestamente, quasi tutti i ragazzi dell'SCW già da subito hanno visto qualcosa nel mio personaggio, in me, che valeva la pena di essere mostrato nei nostri eventi, quindi Giacomo Giglio ovviamente, Crimi, Cloud, Mickey Hunter, mi hanno tutti detto che comunque sto portando sul ring un personaggio che funziona, che non si vede molto in giro, quindi diciamo che devo essere onesto, sono grato a tutti per la fiducia che mi stanno dando, per diciamo, i consigli, i complimenti, anche diciamo, i pointer sui quali migliorare. Quindi, da quel punto di vista, sono anche molto riconoscente con tutti i ragazzi dell'FCW, non solo con Giacomo Giglio. Prossima domanda interessante. Come descriveresti il tuo stile sul ring in tre parole? Che non solo ovviamente dammi tre parole, solo... Prego, prego. Allora, tre parole di sicuro: bizzarro, senza ombra di dubbio. Fammi pensare. Divertente, perché il mio obiettivo è quello: è intrattenere e divertire il pubblico. E sgargiante, direi: sgargiante. Comunque, il mio obiettivo è anche quello di farmi notare non solo come costume, ma anche in quello che faccio, per quello che so fare. Come, in cosa ti senti unico? In cosa ti senti unico? Per meglio dire, la tua gimmick, in che cos'è unica o comunque particolare rispetto a tutti gli altri lottatori dell'FCW? Allora, come ho menzionato prima, la mia gimmick è ispirata ad alcuni wrestler giapponesi poco conosciuti, del tipo che se io chiedo ai ragazzi dell'FCW chi sono, glielo ho già chiesto, non lo sanno. Semplicemente, comunque questo non si applica soltanto ai ragazzi dell'FCW, ma anche un po' a tutti, qua o quasi tutti i wrestler italiani, onestamente, Fammi perché un poco non so. i nomi. Allora, ci sono un po' di ispirazioni. Come attire mi sono ispirato a Mentai Kid della Kyushu Pro Wrestling, forse l'hai sentito nominare, non lo so, mai. Cos'è, se Dio nominare, però ho visto, no. Prego, dire, scusa. No, allora, semplicemente è un luchador che comunque è vestito di rosa, alcuni lo chiamano il Re Mysterio giapponese, però il suo personaggio è completamente diverso, è un eroe dei bambini. L'avrò letto da qualche parte, vederlo su ring no, letto da qualche parte. Scusami, come te lo intendo? Comunque, chi ci vede, consiglio di recuperarsi qualcosa perché purtroppo recentemente si è ritirato, ma sapere, purtroppo è molto, molto, molto sottovalutato. Come personaggio in sé, mi sono ispirato a un altro paio di wrestler, uno sempre della Kyushu Pro, un altro Minita in Pro Wrestling Noah. Quest'ultimo è Black Mansoore. Lo so, probabilmente non lo conosce nessuno. Semplicemente Black Mansoore, ogni 2x3, un po' come me, fa tipo così. Quindi questa cosa l'ho presa da lui. Mentre dall'altro wrestler della Kyushu Pro, che è Batten Bla Bla, anche lui, io dico questi nomi, ma probabilmente nessuno saprà chi sono. Si chiederanno tutti, ma sto qua che si guarda. Allora, prettamente perché tu ti sei libero di ispirarti a chi vuoi, non è che ti devi ispirare per dire a Antonio Inoki o all'Uomo Tigre, infatti due esempi che comunque hanno cioè, di loro perché o se preferisci Tiger Mask, è meglio a dire Tiger Mask, non l'Uomo Tigre, sono i cartoni animati, però ti va fatti complimenti dal punto di vista di come si dice in gergo, onestà intellettuale, perché tu hai scelto di non conformarti, di essere anticonformista, di ispirarti a Luchador o Strong Style o pure Reso, comunque giapponesi, che praticamente di renderli tuoi, di rendere tuoi, sì, tuoi, di renderli tuoi. Credo sia Diciamo che stato più che chiaro. renderli miei è semplicemente un omaggio, secondo me, più che Vabbè. altro a questi personaggi che comunque sono estremamente sottovalutati. Estremamente, veramente. Cioè, Pochissimi li conoscono purtroppo. non si allontana da, perché renderli tuoi è comunque un tributo. Anche quando tu usi, per dire, una finisher o una mossa che praticamente nessuno conosce, è comunque un tributo, perché il giorno che ti chiederanno scusa, ma perché hai usato, io mi ispiravo, come pure il compianto di Guerrero con i tre amigos che si ispirava ai suoi amici. Quindi, farti l'esempio, credo che sono stato abbastanza. Se vuoi aggiungere qualcosa. No, onestamente stavo giusto spiegando l'ultimo wrestler che era Batten Bla Bla, semplicemente è un wrestler del quale il comedy a me onestamente fa impazzire e mi sono ispirato anche molto da lui per certi momenti che ho portato il personaggio in sé. Ecco, semplicemente ho descritto queste mie tre ispirazioni per il personaggio. Perfetto, andiamo avanti. C'è un match che consideri il match della svolta, il match che hai capito, parlo ovviamente a parole mie. Sai che c'è? Posso veramente fare bene nell'FCW o comunque nel wrestling italiano. Un match importante, un match che ti è rimasto nel cuore, un match che lo sogni anche la notte. Allora, questa è una domanda, cioè la risposta che ti sto dare non te l'aspetterai. Il vero match della svolta mio deve ancora arrivare, proprio quello della svolta assoluta, perché ovviamente i match belli miei che ho fatto mi piacciono ancora, me li ricordo, però il vero match della svolta deve arrivare. Non, diciamo, non l'ho ancora proposto. Mi ricordo ovviamente la notte in cui ho vinto il titolo social media in una Battle Royale, però diciamo che lì la mia performance è stata incentrata tutta la fine. Non sono stato proprio protagonista assoluto nella, diciamo, inizio e metà. Ho fatto il match al Monsterland a Ferrara, che davanti a tante, tante, tante persone. Però anche quello sì, abbiamo proposto un match carino, simpatico, abbiamo ottenuto un discreto fervore da parte di fan che comunque non hanno mai visto un match di wrestling, però anche lì cioè, ero comunque ottobre dell'anno scorso, da lì sono migliorato, quindi so che rispetto a quello posso fare tanto di meglio. E poi vabbè, il mio primo match anche ce l'ho nel cuore, perché ovviamente il primo match è sempre nel cuore, perché da lì diciamo capisci quanto sei migliorato. E anche questa piccola chicca del fatto che il match è finito con una mossa che non conosce nessuno praticamente, la Colossal Breath Eater. Sai cos'è la Colossal Breath Eater? Vediamo, ti testo, dimmi cos'è la Colossal Breath Eater. Ripetilo un momento, scusami. Colossal Bird Eater. C'entra comunque con, vabbè, la mossa di potenza. No? C'entra comunque la testa. Non proprio, è una sottomissione che ti prende le gambe, un braccio te lo lega intorno al coppino, cioè sei tutto strano ed è una sottomissione che comunque anche quella viene dal Giappone, me l'ha fatta il Marchese per finire il match e diciamo che mi è rimasta in mente sta cosa perché quasi nessuno conosce sta mossa. No, vabbè, perché io non seguo il pugliese, comunque i giapponesi, allora perciò non. Se poi me la descrivevi, perché non è lontana, che è utilizzata pure in parte dagli americani, però ovviamente modificata, non come l'hai descritta tu, Seria. No, allora in verità è anche difficile da descrivere perché è una mossa da fare complicatissima. Comunque, che per chi è interessato, se cercate su YouTube Colossal Bird Eater Wrestling, la trovate, c'è cioè una clip di una federazione giapponese di media importanza dove dove viene effettuata questa mossa tra in un match. E mi è rimasta in mente tanto sta cosa. Devo essere onesto. Prossima domanda. Comunque si potrebbe imparare, ti ringrazio. Sei più istinto, strategia o storytelling? Principalmente istinto, un po' di storytelling anche, però Wing Snake è tanto tanto tanto istinto. Cosa ti fa salire l'adrenalina prima di entrare sul ring? Allora, diciamo che vabbè, ormai lo faccio da un anno e passa, però ancora il prospetto che io sono un pro wrestler che sta andando a lottare mi stupisce ancora. E pensare anche prima del match che un paio d'anni fa sta cosa non me la sarei sognata lontanamente di fare, diciamo, mi dà la carica, mi dà tanto la carica. Ti senti ancora come si dice, come il primo giorno, il cosiddetto primo giorno di scuola? Onestamente no, però sento ancora un po' quella sensazione tipo, cacchio, sono un pro wrestler, sto facendo, diciamo, qualcosa che non fanno in tanti, cioè sono comunque un pezzo costante di una federazione di wrestling, cioè sta cosa mi stupisce ancora. Se, cioè, ti posso giurare, 6 mesi prima di quando ho iniziato ad allenarmi non pensavo che avrei fatto sta cosa, cioè è una roba l'idea proprio di iniziare a fare wrestler mi ha colpito come un fulmine a ciel sereno, devo essere onesto. Cosa ha significato per te vincere, la cintura FCW Social Media? E diciamo che è stata la prova definitiva che il mondo FCW ha fiducia in me, crede in me e sa che posso proporre qualcosa di interessante nei loro eventi. Questo più che altro per me è quello che significava il titolo. Non è tanto, ah, sono campione, figata, adesso vado a far vedere a tutti gli amici la foto di me col titolo. Non è stato tanto quello per me. È stato proprio, diciamo, attestato di fiducia da parte dei ragazzi, da parte anche del pubblico che comunque, penso di essere riuscito un minimo a connettermi con le persone che vengono a vederci col giro dei mesi. E diciamo che il titolo SW Social Media non è semplicemente per me una cintura, è proprio bravo Wing Snake, stai facendo un lavoro almeno decente, minimo, cioè almeno quello. Sei rimasto piacevolmente sorpreso quando hai vinto il premio FCW Rookie of the Year 2025. Te l'aspettavi o è stato come un fulmine a ciel sereno? Sì, un fulmine a ciel sereno, sì. Allora, più che altro è stato un fulmine a ciel sereno il fatto che avremmo ottenuto il premio Rookie of the Year. Non dico che è stata una sorpresa perché penso di essere rookie migliore, sono più bravo degli altri, ma perché avevamo due opzioni, una ero io, l'altra era Black Bull che aveva fatto in quel periodo 3 match. Non che io ne abbia fatti così tanti di più, però. Diciamo che ho avuto un po' più di tempo per dimostrare di meritare quel premio, cioè con tutto il rispetto, non lo dico proprio perché mi ritengo migliore di Black Bull, mi ritengo migliore di chi ti può venire in mente, semplicemente perché ho poca esperienza, ma l'altra opzione aveva ancora meno esperienza, ancora meno match di me. Semplicemente, diciamo che se Black Bull avesse avuto più tempo per dimostrare di meritare quel premio, l'avrebbe anche vinto, eh. Ti voglio anche chiedere, allora, ovviamente facciamolo come si dice, il confronto tra la cintura social media e il premio Rookie of the Year 2025, quale dei due riconoscimenti senti più tuo, più meritato? Allora, sicuramente la cintura social media, per il semplice fatto che in meritarmi il titolo di Rookie of the Year, come ho detto prima, era o io o Black Bull che ha fatto 3 match. Quindi diciamo che non è tanto che me lo sono meritato, cioè semplicemente, ok, Wingersnake è probabilmente l'opzione più adatta, diciamo, per ricevere il titolo di Rookie of the Year. E quindi il titolo social media comunque è stata una roba che mi hanno detto, cioè, che ha significato di più onestamente rispetto che al titolo di Rookie of the Year, che comunque ha la sua importanza. Il titolo Rookie of the Year è un altro attestato di fiducia da parte del mondo FCW, un altro modo di dire stai facendo un buon lavoro, grazie dell'impegno che ci stai mettendo. Pensi e credi che sia cambiato il tuo status? Io adesso sono cattivo, quindi non mi odiare. Da, per dire, ultima ruota del carro, almeno ad avanzare fino quasi, come non dico il conducente, però almeno ad avanzare in una cosiddetta, chiamavola platonica, classifica. Pensi che sia cambiato il tuo status? Ti ho detto di non offenderti. No, non mi offendo. Comunque direi di sì, perché basta vedere un attimo le statistiche. Nel 2024 ho vinto un match, nel 2025 l'ho iniziato vincendo il titolo social media e ho vinto 1, 2, 3 o 4 match su 5 o 6, cioè almeno la metà dei match li ho vinti, quindi già quello è statisticamente dimostra che Wingersnake sta salendo su dei ranghi e si sta avvicinando lentamente al top spot, se così si può dire. Ovviamente ci vorrà tanto tanto tempo per quello. Due domande in una, di cui una già prestabilita e una che mi è venuta al momento. La domanda prestabilita: la pressione nei tuoi confronti secondo te è aumentata? E poi qual è il tuo rapporto verso il pubblico? Questa è pensata da me adesso, non era concordata. Ok, allora la pressione non è, allora, nel senso, va bene essere nervosi per fare quello che faccio, però non ho mai sentito una certa pressione per, diciamo, come Wingersnake, per lottare. Semplicemente mi piace, ci metto del mio meglio, perché è quello che voglio fare, comunque mettere il mio meglio in quello che faccio. Cioè, semplice, non è una questione di pressione, è una questione proprio, io voglio dare il meglio di me quando sono sul ring, per quello che ovviamente mi è possibile, ma ovviamente sto cercando ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, quello che sarà di migliorare. E il mio rapporto col pubblico, direi che comunque anche quello è una dimostrazione che sto migliorando col tempo, perché come ho menzionato poco fa, poco alla volta il pubblico comunque sta creando una connessione con me, lo sento quando durante i match che tifano per me, che comunque vuol dire che sto facendo un buon lavoro e che sto intrattenendo queste persone che vengono a vederci, che pagano il biglietto, e che per questo sono molto grato comunque. Ti chiedo scusa un attimo, devo mettere in carica il telefono, quindi mi muoverò un pochino. Perdonami, Non c'è problema. Wingersnake, se mi senti batti un colpo, se mi senti. Ti sento. Allora, fine prima parte, i tuoi obiettivi futuri e social. Obiettivi futuri, di sicuro. Allora, mi piacerebbe presto, scusate se cerco di caricare il cellulare intanto, ok? Uno dei miei obiettivi futuri, non so se lo otterrò quest'anno, ma spero di veramente, cioè devo ottenerlo l'anno prossimo. Se non lo tengo l'anno prossimo, diventerò molto triste. E fare il mio debutto anche in un'altra federazione, in un'altra realtà, di sicuro, almeno quello. Molto probabilmente italiana, sicuramente italiana, ma voglio veramente almeno fare un debutto fuori dall'FCW. Un altro obiettivo, anzi, due altri obiettivi, tre altri obiettivi sono i match che vorrei fare. Di sicuro voglio un match con Daniel Arcioni. Sono mesi che chiedo a TG il match con Daniel Arcioni, perché sono sicuro, e penso che sia abbastanza sicuro anche lui, che possiamo proporre qualcosa di molto carino io e lui sul ring. E ovviamente ci potrebbe volere un po', ma vorrei veramente avere un match con TG e un match con Creamy prima o poi. Questi sono i miei principali obiettivi. Obiettivi soci. Sei ambizioso. È un abbastanza. Semplice, sono obiettivi comunque, diciamo, ottenibili in questo preciso momento. Non è che sto andando a sparare, voglio farmi il match con la figura WWE conosciuta in tutto il mondo. Stavi dicendo i social e ti ho interrotto. Allora, obiettivi social, non è che in particolare abbia obiettivi social, devo essere onesto. I social semplicemente lo uso per postare le cose che faccio io sul ring e un attimino per condividere l'amore per certi match che ho. Comunque tu lo sai, se non sbaglio, c'ho anche l'account in cui posto clip da match vari ed eventuali che mi guardo. Se vuoi pubblicizzare quello, se vuoi pubblicizzare quello o il tuo da lottatore, come vuoi. Va bene, approfitto. Sì. Per chiunque ci sta guardando, signori, andate su Instagram, cercate Winged Snake PW per seguire Winged Snake. E sull'account di Winged Snake c'è anche taggato il mio account, che è tecnicamente il primario perché è nato prima quello, ma ormai contiamo come secondario, come importanza, Snake Spit, dove posto tante clip e anche qualche contenuto secondario sul wrestling in generale nel mondo, in Giappone, in Inghilterra, in Italia, in America, un po' di tutto. Quindi se mi volete seguire sui social, se volete vedere qualche clip interessante, sapete dove andare. Grazie a Winged Snake, finita prima parte. Grazie a Winged Snake, seguitelo, mi raccomando. Non dimenticate, questa intervista è disponibile ovviamente interamente su Odyssey e poi in versione audio su deadradio.net. Da Pino Fascione è tutto, alla prossima. Eccoci, Winged Snake. Allora, chi rispetti davvero in FCW e perché? Rispetto onestamente tutti, perché ognuno in FCW ci mette il proprio impegno, ci mette le proprie abilità. Se proprio vuoi il nome, i nomi più che proprio dico, loro sono quelli che ci mettono tanto di più rispetto agli altri, cioè nel senso ognuno ci mette quello che può, quello che riesce a dare, quello che vuole dare, cioè comunque qualcosa ci mette ed è importantissimo e ringrazio personalmente per ogni goccia di impegno che ci si mette, però ovviamente TG e Creamy diciamo che stanno mettendo veramente tanto dentro l'FCW e anche Michianta diciamo come social, come grafiche, come contenuti, si sta facendo un po' anche lui il mazzo, devo essere onesto, e comunque tutti i ragazzi FCW si fanno il mazzo per quello che dici su Mickey Hunter, che poi glielo dico, Oh, non lo sto insultando, non lo sto insultando, Mickey Hunter, ti sto facendo i complimenti, non ti preoccupare. Saluto a Mickey Hunter, saluto ciao Mickey. dei tale è morto a TG Giacomo G. Saluto Alex Cream. Saluto ciao Andrea a tutti Montano. Ragazzi SW. Andiamo avanti, Wicked Snake. Hai rivali dichiarati o che vorresti affrontare il prima possibile? Allora, in questo momento rivali dichiarati no. Ho avuto la rivalità con Cloud, però diciamo che questa rivalità ormai è finita da qualche mese, con lui che ha vinto il titolo social media. Come ho menzionato, c'è il signor Daniel Ascioni che vorrei veramente affrontare presto. Mi piacerebbe veramente salire con lui sul ring e mostrargli un po' il potere del serpente. Perfetto. Hai un dream match che vuoi ovviamente che vuoi ancora disputare? Dream match può essere un lottatore italiano come un lottatore internazionale. Dream match assoluto mio, diciamo fattibile, nel senso senza spararla in aria, è Wing Snake o contro Tambo Merak. Signor Merak è uno dei miei preferiti in Italia, devo essere onesto. Mi fa impazzire Tambo Merak, o contro LG. LG anche lui comunque è venuto da un SW, è stato campione Revenge, e so che con lui potrei proporre qualcosa di molto divertente. Saluta Tambo Merak. Scusa se mi permetto, parlo da fan ovviamente. Con LG lo vedo, a parte possibile, anche prossimamente. E poi interessante, mi vedo bene, ma pure dal punto di vista proprio dell'interazione, quindi extra ring, extra lottato, vedrei bene qualche cosa tra di voi. Mai, come si dice, mai dire mai. Non so cosa ne pensi. No, penso che comunque l'ho detto, so che possiamo proporre qualcosa di molto divertente, molto carino. Potrebbe anche essere, diciamo che adesso prossimamente SW annunciano direttamente proprio, come si dice, è uno scenario, propongono LG contro Wing Snake, capace, molto probabilmente sarebbe il match migliore che abbia fatto fino a quel punto, sicuro, o quasi. Per ora il tuo avversario più duro, il tuo avversario più difficile che hai affrontato? Cloud. Quei tanti match che ho fatto con Cloud, tanti nel senso rispetto a quelli che ho fatto io in totale, si è dimostrato un avversario abbastanza tosto e picchiaduro, e mi ha picchiato tanto duro. Cloud, va che è finita tra di noi, però mi ricordo. Occhio al serpente, si vendica se vuole. Secondo te chi è l'attuale talento, che può essere giovane o diciamo, come ti posso dire, già presente, però deve avere ancora una possibilità? Secondo te comunque chi è il talento che insieme a te può avere maggiori chance di salire ai piani alti dell'FCW? Vabbè, ho fatto la domanda che sembrava la WWE, però comunque il senso è quello. Intanto hai detto bene, Wing Snake è uno dei talenti che può salire ai piani alti, bravissimo, questa è la risposta giusta. E a parte me, è una bella domanda, perché tutti i ragazzi meritano. C'è adesso sto cercando di pensare a qualcuno che di sicuro non ha mai vinto il titolo massimo SCW. Vediamo. Occioni prima o poi potrebbe vincere il titolo SCW, sarebbe un concetto interessante, uno scenario molto interessante secondo me. Poi fammi pensare, qualcuno di giovane che potrebbe vincere il titolo SCW ora come ora. Bella domanda. Vabbè, forse sto puntando io troppo in alto col titolo massimo SCW, però c'è il novello arrivato Judas Vane che potrebbe proporre qualcosa di molto carino, dandogli tempo potrebbe dimostrare di valere molto secondo me. Anche Black Bull ovviamente. Black Bull però intanto ha perso contro di me per diventare Rookie of the Year, quindi Black Bull devi lavorare tu. piaciuto quella tua risposta, perché hai riuscito a compensare bene la tua risposta, ovviamente quello che pensi, con la gimmick, perciò ti ho applaudito, un complimento, ovviamente. Thank you. Come bilanci la tua vita personale, privata, il lavoro, con gli allenamenti, ovviamente la maschera, perché ovviamente privatamente starei senza maschera, però pubblicamente hai pure qualche problema, o viceversa. Privatamente stai sempre con la maschera e qualcuno dice: ma chi è? È un fantasma? O è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui. Vabbè, Allora, sempre su per questo capire. quesito della maschera lascio il mistero perché penso sia molto divertente lasciare il mistero su questa cosa. Non saprete mai se Winged Snake è sempre mascherato o se veramente si toglie mai la maschera. Non lo saprete mai. Sarà un nostro segreto solo tra me e voi. Giusto, comunque seriamente, come bilanci? Vabbè, io l'ho messo un poco sul comedy, anche se ci sta, e ti ringrazio per la risposta. Come bilanci la tua vita privata e gli allenamenti? Allora, semplicemente cerco di trovare l'equilibrio giusto, ovviamente. In questi casi è il wrestling che si deve adattare al lavoro e non viceversa, purtroppo, però è così, uno deve guadagnare il pane. Però ovviamente quando l'occasione c'è, faccio il possibile comunque per quando mi devo allenare, per quando devo andare agli eventi. Diciamo che gli eventi è sempre stata una cosa che ho tenuto, diciamo, off limits per ogni datore di lavoro che mi ha chiesto. Io, cioè, ogni colloquio di lavoro che abbiamo fatto da quando ho iniziato, allora va bene tutto, un sabato a mese mi serve libero per quando abbiamo l'evento noi in FCW. Quello non si discute, lo devo avere, mi dispiace, ma può, va, se no vado da un'altra parte, mi spiace. O mi paghi il doppio, ci penso. Apprezzo la tua caparbietà e determinazione. Ti faccio, diciamo che poi te lo dirò privatamente, due le devo saltare per un semplice motivo, perché hai risposto prima in obiettivi futuri e i fan non vedranno mai il tuo volto. Queste sono le domande e le cambio, per ora la cambio con questa. Mi stava venendo in mente, facciamo quella là, faccio alla Gigi Marzullo. Allora, fatti una domanda e datti una risposta. Però la domanda non te la devo dire, devo solo dare la risposta. No, la domanda te la fai a te, me la devi dire, te la fai a te stesso e ti dai anche la risposta. Ti fai la domanda e ti dai la risposta. Per dire, non lo so, che avrei fatto se non mi fossi infortunato? Forse non avrei, avrei, avrei, ci avrei messo più tempo nella riabilitazione. Questo è il senso. Ok, vediamo. Allora, chi avrebbe fatto Winged Snake, per così dire, se non avesse mai iniziato a fare wrestler? Winged Snake, diciamo, per così dirlo, perché è un Winged Snake che non ha mai iniziato a fare wrestling, quindi non sarebbe mai stato Winged Snake. Sarebbe una persona leggermente più triste, I guess, perché comunque da quando ho iniziato a fare wrestler, trovo in me miglioramento su miglioramento su miglioramento. Scopro comunque tante cose nuove che non avrei mai pensato di riuscire a fare così presto, però le so fare. E vabbè, un po', diciamo, non mi voglio vantare, però da quando ho iniziato a fare wrestler, quando ho iniziato ero tipo a 76 kg. Un anno dopo sono riuscito a raggiungere 62. Ho perso 14-15 kg in un anno, che non è poco. Ah, minchia, complimenti. Ti faccio anche quest'altra, sempre improvvisata al momento. Se tu non fossi stato Winged Snake, parlo a livello di gimmick, probabilmente quale altra gimmick avresti utilizzato? Questa è una domanda un po' difficile. Allora, di sicuro qualunque gimmick sarebbe stata avrebbe avuto un po' di, come dire, di input da parte degli altri ragazzi FCW, perché comunque anche per Wing Snake ho chiesto gli input, ho chiesto consigli e penso che avrei comunque puntato sul comedy, su una gimmick comedy, magari anche senza maschera, però penso che mi sarei incentrato su quello. Devo essere onesto. Aggiungo pure, comunque ancora 3 domande e ci salutiamo. Comunque aggiungo pure, non dimentichiamo, il Monster Head che ci sarà a ottobre, se non ho letto male, a Imola. Vuoi dire qualche cosa, Preparatevi. così una brevissima pubblicità su Monster Head però. Allora, ragazzi, il 31 ottobre è a Ferrara o in quel periodo, ricordatevi che c'è il Monsterland e ci sarà tanto da divertirsi, non solo per il wrestling, perché ci saranno tanti, tanti stand, tanti eventi, tanta musica. Saremo a lottare noi dell'FCW in una pista della Formula 1, che penso che sia una cosa inedita nel wrestling proprio in generale, non italiano, non FCW, cioè proprio una roba mai vista. In una pista da Formula 1 scazzottarsi, cioè proprio una roba fantastica sarà. E non potete mancare se siete a Ferrara. E se non siete a Ferrara, compratevi i biglietti, mi raccomando, Se non venite a vedere Wing Snake che si mena con altri uomini sudati sulla pista Formula 1, vuol dire che veramente siete proprio. Se permettimelo, ma siete proprio degli hombres merda, siete. Che dici Sarei napoletano deluso in voi. e che fai? Mi imiti Dovevo, prima o dire poi. bo, bo, bo, micio, micio. Comunque, secondo te, oggi il wrestling italiano è pronto o si deve abituare alla tua presenza su ring? Questo ovviamente riguarda in generale. Se l'ho leggermente cambiata rispetto all'originale. Allora, io sto portando in Italia almeno una gimmick che non si è, penso, mai vista in Italia, perché comunque è qualcosa ispirato da realtà talmente di nicchia del Giappone che di resto degli italiani che la conoscono, penso, uno forse, il marchese, cioè proprio lo dico, il marchese potrebbe essere l'unico che potrebbe riconoscere qualcosa del personaggio che faccio senza che glielo dica io prima. E ovviamente, come ogni cosa, diciamo, che deve prendere piede, deve iniziare da qualcuno, qualcosa che non si prenderà tutto il merito, che non sarà il massimo fautore della nuova moda, per così dire, ma semplicemente è il primo passo verso una nuova realtà, un nuovo stile, un nuovo modo di fare wrestling. Cioè, so benissimo che probabilmente non cambierò il wrestling italiano, ma potrei essere una scintilla che porterà qualche cosa nuova molto interessante nel panorama italiano del pro wrestling. Potrei. Ma magari finisce che mi dimenticheranno subito, può essere, però mai dire mai. Ultimissima domanda, poi, ed è giusto ripetere ovviamente, vabbè, poi dopo solo i social ci salutiamo. È stato per problemi tecnici, indipendentemente dalla nostra volontà, è stata una maratona. Voi non lo saprete mai, ma è stata una maratona e ringrazio ancora Wicked Snake della sua pazienza. Grazie a te per avermi invitato. Allora, ultima domanda. Ti vedi allo specchio e ti vedi Wigan Snake bambino o comunque non pensava mai di cacca di ring e ti vedi allora ti vedi allo specchio Wigan Snake bambino e Wigan Snake ovviamente adulto, c'è un doppio specchio se preferisci, lo specchio a diciamo doppio, mettiamola così. Cosa pensi? O cosa diresti al Wiggins Deck bambino? Snake bambino, svegliate molto presto, mettici subito l'impegno nelle cose, subito, cioè proprio, cioè buttati nelle cose su cui magari senti che hai timore a provare, perché comunque, cioè, uno ne varrà la pena, due otterrai quello che ho ottenuto io molto prima di quanto lo abbia ottenuto io, perché comunque ricordo che ero abbastanza, cioè, lo sono ancora leggermente, ma quando ho iniziato ero più sovrappeso di quando lo ero adesso, di 10 e passa chili. Quindi, cioè, già questo dice qualcosa sul tipo di persona che potevo essere. E non sto dicendo che facevo proprio schifo come persona e tutto, no, semplicemente dico, potevo buttarmi in certe cose molto prima rispetto a quando non l'abbia mai fatto, e non parlo solo del wrestling. Ok, massimo rispetto per te. Allora, Thank solo ultimo, allora, un momento, messaggio di promozione mio, poi i tuoi social e ci salutiamo ai fine di questa maratona che voi non saprete mai quello che abbiamo passato. Però ne è valsa la pena perché intervistare a Wicked Snake era un'occasione importante. Ringrazio ancora Wicked Snake, ringrazio, ma questo è personale. Mickey Hunter, Italian Immortal, The Italian Immortal TG Gio Bogigli, ringrazio Alex Crimi, mando un saluto al mio caro amico Andrea Volpato. Allora, questa intervista sarà disponibile integralmente sulla piattaforma Odyssey e poi la potete recuperare in versione audio su dandyradio.net e radiowifiofficial.it. Ringrazio ancora Wingers Deck e hai 2 minuti per pubblicizzarti, sia che sia social, che sia merchandising, che sia la tua maschera, eccetera, eccetera. Prego, hai 2 minuti e poi ci salutiamo. ragazzi che ci state guardando, Winged Snake è qua per dirvi che dovete seguire non solo Winged Snake sui miei social, Winged Snake PW e Snake Spit, tutte e due su Instagram, ma dovete seguire l'FCW, dovete venire agli show FCW per vedere Winged Snake che sfoggia il potere del serpente sui suoi avversari. Sa! Winged Snake è sempre pronto, Winged Snake non ha paura di nessuno. Wing Snake vi invita, Wing Snake vi guarda, sa che non seguite i social, sa che non venite agli show, quindi state molto attenti che se no il potere del serpente lo assaggiate anche voi. Fate molta attenzione, seguite sui social me, seguite sui social SW, venite agli show SW, perché comunque meritano, perché comunque dietro c'è l'impegno di tante tante tante e tante persone, e supportate comunque, non dico per forza solo noi, ma supportate comunque chi vi piace in Italia, perché ce n'è bisogno in generale di supportare le realtà in genere. Non dico proprio per aiutare X, Y e Z, ma proprio supportare chi ci piace, supportare le realtà che ci interessano, che sia semplicemente il like, il follow, che sia vai a vedere questo, vai a vedere l'altro, vai a vedere lo show, vai a vedere il video su YouTube, qualunque cosa mostrate supporto verso le realtà che vi piacciono. E dato che ci sono io qua, mostrate supporto verso l'FCW. FCW forever. Grazie a Wicked Snake, seguite Wicked Snake, seguite l'FCW che è sempre di casa qui sull'Ora del Bessi. Da Pino Fasciano è tutto, alla prossima e grazie ancora a Wicked Snake per la sua disponibilità e la sua pazienza perché è stata una maratona che voi non saprete mai quello che abbiamo passato. Buona serata, buone botte e alla prossima dall'Ora del Bessi. Grazie a Buona tutti. serata. Sa